haben. Was gab es? Ja, aber ich habe es doch wäre mit der Rennzeit für diesen Lektor eingependelt, als er nicht sein wollte. Ich habe es doch mitbekommen. Ich kann nicht mehr das Ding weiter. Hat mit Schwung, ja. Also oberhalb von Kanal 30 war nichts mehr schwingen. Und ohne Schwingen bei Funkgeräten von dort. Ja, 30, ein, also 31 und 31 ist der Blick. Ja, also. Niedrigste Kanal, ich arbeite gerade bei Kanal 30. Und ich habe es nicht mehr so schlecht. Rimasto qualcuno su Kanal 10? Hola, hola. Canale 10, canale 10, c'è qualcuno sul canale 10, c'è propagazione e poi non c'è nessuno. Canale 10, qui Alfa 21 da questa parte, 27.075, c'è qualcuno? Canale 10, c'è qualcuno sul canale 10, ripeto, canale 10. アフリカ中部向けの情報線一三零メガヘルツ以上の周波数でお伝えします。こちらはNHKワールド、ラジオ日本、NHKの国際放送です。ロベ、セイトゥ。 Eia, c'è qualcun altro, solo tu ci sei. No, sto facendo chiamata e c'è un po' di propagazione, però non mi sentono. Adesso ho la radio bassa e poi erano inglesi, non voglio che poi mi cimento a parlare e poi forse non mi ricordo qualche frase, quindi è meglio, c'era un po' di Spagna, ho provato ad entrare, però poi è calata. Perché l'inglese è qualche parolina, non la sai dire, sei abbastanza assenti. Sì, la so dire, che se poi mi sento in una cosa tipo, mi sta arrivando forte il tuo Santiago, tipo Santiago, non so, queste cose un po' non le so, sono un po' più difficili. No, le faccio un po' le storie. L'inglese è fondamentale, è una lingua che ti ascoltano in tutto il mondo, in qualunque parte del mondo vai. L'altro giorno c'erano quei tedeschi che stavo parlando e parlavamo in inglese, quel poco di inglese che riesco a farmi capire, dai, piccolo piccolo, però qualcosa si riesce a dire, dai. Perché se naturalmente altre lingue dell'assoluto, francese non so nemmeno una parola, tedesco peggio che mai, spagnolo un po' ci arrangiamo perché è abbastanza simile all'italiano per cui riesce ad arrangiare, così il portoghese, qualche parolina si riesce a dire, ma già ci ascoltano, non riusciamo a farci capire. Poi il brutto quando inizia a parlare con i serbi, con i russi, però anche loro sanno parlare più degli italiani, cioè se tu vai all'estero, nelle altre nazioni parlano molto meglio che noi, mediamente l'inglese. Sì, lo so, no, io forse è meglio un po' so il francese, voglio fare queste O, però in Francia ce ne tocca l'inglese, infatti. Comunque sì, stavo cercando di fare un po' di chiamata, non c'era nessuno, neanche a Sassari nei giorni. Vabbè, prima c'era quello della Puglia, come ha fatto a non sentirmi, sono il più potente di Sassari e non mi sente. Vabbè, magari a me mi ha detto mi ha ascoltato 9 più 30, io l'ho ascoltato 9 10 pure certi passaggi. Dipende dalle zone, molte volte c'è il canale che riesce a prenderlo, quel canale di propagazione, però anche con pochi watt molte volte senza spingere fai chilometri, migliaia di chilometri riesce a fare, dipende tutto dalle situazioni. Cosa volevo dire? Tu stai dicendo non c'è nessuno sul 10, tu non hai idea quanta gente c'è ascoltando, non hai neanche idea. No, già lo so che sono tutti ascolti, no, vabbè dai, comunque sto scherzando, lo so che sono molto alti, molto più corti. Già lo so che sono tutti in ascolto, non vogliono entrare, perché vogliono ascoltare, che c'è qualcosa di interessante, che ascoltano tutto, sanno tutto. Guarda, sulla 27 purtroppo non puoi sapere chi sta ascoltando, però se c'è quel programma CB Talk, non so se l'hai visto, lì ti rendi conto quante persone sono. Quello c'ha di bello quel programma che c'ha le persone in quel momento che stanno ascoltando e dove sono ubicate, in che località. Ah, ho capito. Lo so, ma si può trasmettere verso CB Talk, tipo io, perché ho messo la sezione di ascolto radioamatori, quindi non posso entrare, devo devo togliere togliere il radioamatore, perché non potrei parlare se sono radioamatori, quelli che sbaglio. Parli nei canali normali, ma non sai quanti radioamatori ci sono nei canali normali, che te frega andare dove ci sono i radioamatori, perché lì devi dare nominativo, che ti interessa. Ho capito, lo so, perché l'ho visto, io di solito l'altro giorno stavo facendo un po' di ascolto su CB Talk la sera, quando tipo che sono dentro casa e qualche volta non esco, e per sbaglio infatti... non lo so perché, come se, quando si spegne, io per riaccenderlo, che si sta spegnendo il telefono, io lo riaccendo muovendo il dito e si clicca il CCC. Infatti c'è molti che mi stavano chiedendo, fammi sentire la tua voce. Ma tu non hai mai parlato perché con CB Talk? No, non ho mai parlato. E per quale motivo non hai mai parlato? Perché molti, alcuni stanno parlando di cose dubbi, e ci sono quelli che parlano di altro, e bisogna trovare un canale interessante, che ci sono persone tranquille. No, ma ne faccio poco i radioascolto, di Talk, è per quello che non entro quasi mai, le poche volte che faccio ascolto. No, basta scegliere il canale. Io qualche volta sono entrato, ma c'erano anche persone competenti, in gamba. Su 14 ho trovato, si trovavano delle persone molto tranquille, c'era questo grande di età, questo Diego, abbiamo fatto delle belle chiacchierate, ho parlato con Salvatore che è in Austria, lui, ho parlato con gli Stati Uniti, con la Spagna, però basta non andare in quei canali dove ci vedi che c'è troppa gente e non c'è entrare. Guarda, qui ci sono 4-5 persone che sono i canali più tranquilli e più dove ci sono argomenti un po' pochettino più interessanti, ci sono delle persone che fanno proprio discorsi interessanti. Quando vai che vedi più di 10-12 persone, lascia perdere, di lì è tutto, c'è di tutto di più. Sì, lo so, no, infatti io ho visto che è interessante. Comunque infatti stavo guardando, ho visto che qualche volta mia sorella faceva il tempo a guardare su TikTok, e c'era questo che di solito quando lo guardo praticamente cerco tipo video di YouTube, e c'era questo che siamo diventati mezzi amici, un po' questo ragazzo che praticamente stavamo parlando così assieme nei commenti, che infatti lui trasmette su TikTok. Sì, ci sono centinaia di migliaia di persone, ti presento, io sono 104 millesimo di persone, ma ci sono arrivati più di 500.000 adesso. Ok, ma praticamente ti dà anche il nominativo, però io non ho visto bene qual è il mio nominativo, quale mi ero dato. Quando accedi te ne accorgi, cerchi utenti nel gruppo e ti appare tuo nome. Avanti, chi vuole entrare? Ti hanno quasi sovramodulato, era un segnale poco meno di 9+20. Attenzione, chi vuole entrare sul canale 10, avanti. Ma tu hai già mangiato ahorita? No, io non ho mangiato comunque. Come, scusa, ero di fra. No, non ho mangiato. No, no, io ho già finito, adesso faccio un po' di compagnia, se c'è qualcuno, se no vado in giro ad ascoltare da altre parti. Ah, meno male si è abbassata un po' la propagazione, dai. Era tutto un macello uno sopra l'altro. Sì, l'ho visto, che stavano tutti sovraccavallando, c'erano spagnoli, comunque. Ma quindi hai detto si può parlare anche con l'America con questo CB Talk? In tutto il mondo parli, ti scegli la nazione, io ci ho impostato Italia, Spagna, Albania, Stati Uniti e poi altri canali ci sono, ti scegli quello che vuoi tu. Ah, ma perché tu sei albanese? No, ho tanti amici, ci vado spesso in Albania. Vabbè, dico, però non parlano italiano, o sì? Loro capiscono, la maggior parte di loro parlano l'italiano molto bene, poi parlano anche altre lingue, l'inglese, l'albanese è una lingua incomprensibile, la più difficile dopo il cinese, è la seconda lingua più difficile al mondo, c'hanno 26 vocaboli, come si chiamano, aiutami, come si chiamano le lettere dell'alfabeto, ne hanno 26 loro, ma sono parole incomprensibili, cioè prima di imparare qualcosa, guai. Ah, ho capito. sì, sono quelle lingue difficili, tipo l'inglese, l'albanese e poi il portoghese, che sono lingue incomprensibili. No, ma anche un portoghese è abbastanza simile all'italiano, abbastanza facile, ma l'albanese è una lingua unica, la parlano solo loro e il Kosovo. In nessuna parte del mondo è una delle lingue più antiche in assoluto, non ha nessuna derivazione da altri fondamenti linguistici, per dire l'italiano deriva dal latino, eccetera, eccetera. L'inglese ci sono delle altre origini, ma sempre una base di partenza, mentre l'albanese è una di quelle lingue pochissime al mondo che non ha nessuna origine, è nata proprio di lì e buh. Ho capito. Comunque Roberto, volevo dire, ma comunque da TikTok trasmettono tutti da telefono? Certo, naturalmente utilizzi le linee dei cellulari. Ah, ho capito. Comunque ti volevo chiedere, ma tu quando usi il microfono da tavolo, per comodità, perché alcuni mi hanno consigliato uno, alcuni mi hanno consigliato un altro, tu clicchi il tasto del PC, ti tieni premuto o metti il lock? No, il lock non lo metto mai, sempre il PTT, perché ti sconsiglio di mettere il lock, che può capitare molte volte che si blocchi e poi molte volte ti allontani e non te ne accorgi, e secondo che problema c'hai all'antenna bruci l'apparato. Ah, no, perché qualcuno mi ha consigliato di lasciare il lock. No, dipende, e perché che ti fa male usare il dittino e tenerlo premuto? Già, va bene. Qualcuno usa i comandi a pedale, tipo quella persona, quel radioamatore che non facciamo il nome, che c'ha quella bella stazione, lui c'ha il comando al pedale, col piede, tac, fa partire il microfono. Ah, ho capito. E praticamente dove lo attacchi il pedale? Ma lui ce l'hai visto, c'ha un mixer, c'ha delle apparecchiature di un certo livello, e siccome ci usiamo proprio microfoni professionali, non usa anche i microfoni normali, però c'ha quelli da voce, quelli da studio, eccetera, eccetera, attaccati al mixer, e di lì va a finire in altre apparecchiature, c'è la commutazione col piede, c'ho anche io la possibilità di farlo, però non mi interessa, io utilizzo il PTT. Ah, ho capito, no, comunque lo so che non è che lo mettono i pedali, comunque so che sono una cosa significata che bisogna tutto collegarlo, comunque però si collega così con un mixer. Lui si è collegato col mixer, ma tieni presente i radioamatori, quelli che fanno i contest, che devono scrivere, avere le mani libere, lo usano per questo motivo, anziché tenere un dito, poi postarti il foglio, girare il foglio, eccetera. Questi che usano il computer quando fanno trasmissioni via computer, che devi scrivere, eccetera, devi mandare qualche cosa, perché con la radio puoi fare tante cose, oltre che mandare voce puoi mandare anche immagini, eccetera, eccetera, devi avere le mani libere. Molti di questi radioamatori, diciamo quelli un pochettino più evoluti, utilizzano il comando a pedale. Ah, ho capito, sì, quando fai i contest. Ma ti volevo chiedere, non l'ho capito, ma cosa serve praticamente fare questi contest per fare i radioamatori? Ci sono dei punteggi, ti danno dei diplomi, per dire se colleghi le 10 capitali, quante capitali ci sono? Un esempio ti sto facendo, in Europa ci sono 30 capitali, tu hai collegato tutte e 30 capitali, ti arrivano le QSL e tu ti prendi il diploma per dire delle capitali, poi c'è il diploma delle isole del Mediterraneo, ti colleghi, quante isole ci sono? 50 isole e ti danno il diploma, poi c'è il diploma, ci sono decine di diplomi, anzi centinaia di diplomi, collegare le chiese, non lo so di dove, oppure collegare tutti i siti archeologici, o collegare delle zone alpine dove ci sono delle stazioni, eccetera, e ci sono diplomi, ti arrivano questi diplomi, quando hai fatto questi collegamenti ti danno diplomi. Comunque ho fatto da un altro radioamatore che infatti praticamente ti hanno tutti dei punteggi, me l'ha fatto vedere anche come si fanno i contest, ma ho visto una cosa a proposito, che infatti il radioamatore in DX per fare in fretta con i contest, una fare in fretta si dice entri e poi dopo neanche un minuto chiudi, fai, perché devi fare più possibile. Certo, sono passaggi brevissimi, di pochi secondi, dice IS0, eccetera, eccetera, Sassari, quello ti risponde sì, segnale 9, radio 5, e scrivi l'ora e vai a Napoli. Poi parti così, quando inizi a fare questi collegamenti fai centinaia di cose, io li ho fatti i The Contest anni fa, ma mi arrivavano da tutta l'Italia, era una giornata mai successa una cosa del genere, mi ascoltavano da tutte le parti, io ascoltavo, c'era una propagazione aperta per tutta l'Italia, diciamo una frequenza poco occupata, diciamo, per cui c'era tanta roba. Poi ci sono anche dei contest, aspetta, adesso mi è perso il filo, su in QRP si chiama, trasmettere con potenze bassissime, per dire un watt, mezzo watt, e dire io ho collegato, ma ti posso dire, l'arcipelago, le isole Tremiti, un esempio, con un watt di potenza, è solo un'antenna, lavorando in antenna, e quelli sono dei punteggi molto. Ah, ho capito comunque. Però ti volevo chiedere, per caso dopo mi potevi mandare il numero di Alfred, no, te lo scrivo meglio, non voglio dirlo, te lo scrivo via messaggio, va, anche prima. Il numero di chi? Ma di uno di qua che sta al baracchino? Sì, parla al baracchino. Ok, dammi un secondino che mi allontano un secondino e arrivo su. E dove hai fatto in conte se non vai in C26? Cosa? No, Roberto, se c'è, ciao Riccardo, buonasera a tutti. Ho detto, dove hai fatto il contest, il 26? No, io non ho fatto contest, i 26 non se ne fanno contest, i radioamatori, il 27 non se ne fanno, non hanno mai fatto, mi sembra. Fanno tra i radioamatori. No, quello lo dici tu che lo si fanno, il 27, si fanno e come? Vai al continente dove se li fanno i contest. Robe, come l'hai fatto, come SWL? Comunque, lo sai che invece mi hanno detto un radioamatore, non so che nome, mi ha detto invece che non si fanno il 27. No, no, si fanno e come. Guarda, proprio l'altro giorno, praticamente su uno di quei forum che ci sono di CB e roba del genere, stavano proprio facendo un contest. Ah, ho capito, boh, vabbè, allora sarà sbagliato. E vabbè, qua non ne fanno, qua in Sardegna non ne fanno, ma in continente c'è una mentalità diversa, ci sono le associazioni, il radio club, fanno gite, fanno cene, eccetera, eccetera. In più si riuniscono, capito, fanno contest, tutte queste cose qua, tipo come il club Alfa Tango che fa queste cose qui. Sono rientrato io. Robè, ma alla fine non c'è il numero di quello che ti ho scritto? No, no, non lo conosco proprio io. Lì chi lo conosce è Antonello Pompugno. Se riesci a recuperare il numero di Antonello tramite qualcuno, chiami Antonello e te lo fai dare. Tu non ce l'hai neanche quello di Antonello? No, non so se ce l'abbia Gianni. Tu ce l'hai il numero di Antonello Pompugno? Mi Claudio ce l'ha, mi. Chiedi a Claudio che ce l'ha. Glielo chiedo a Claudio. Il numero di Antonello c'ha Claudio, non c'ha il numero di Fabio, non credo almeno. Carli, se mi dici a chi devi chiamare, magari ce l'ho io. Master. No, no, Master no. No, non c'è il numero di Master. Mi dispiace, non te lo posso dare. Però è che ce l'ho un po' bene. Con Pugno ce l'ha, forse. Il numero di Master con Pugno ce l'ha. Io chiedo, faccio un giro lungo, gli chiedo a Claudio il numero di Antonello e poi da Antonello gli chiedo il numero di Master. E io. Ti stavo dicendo, Robe, dove li hai fatti i contest da SWL? A chi stai dicendo? A te, Roberto, ti chiami tu. Ah, non ho sentito, scusa, ho sentito solo un pezzo del passaggio, cosa hai detto già? Ho detto, ti ho detto che hai fatto dei contest tempo fa, ho detto dove li hai fatti, da SWL? Cioè, il 27 li ho fatti, un pochettino più su là. Ah, no, perché Riccardino stava dicendo appunto che il 27 non si fanno il contest. Ho detto no, stai sbagliando, perché i contest del 27 si fanno, qua magari non ne fanno, ma in continente ci sono i club Alfa Tango, tutti questi club qua che fanno i contest. Io ho fatto un boom una decina di anni fa, e la maggior parte erano radioamatori. Mi hanno risposto da tutta Italia, dal nord Italia fino al sud, ma hai visto una cosa del genere? Addirittura sono stati loro sorpresi, dice, la prima volta che colleghiamo la Sardegna dal lago di Como, addirittura io ho avuto dei collegamenti, che di lì è morta proprio per la Sardegna, ci sono gli Appennini, sono chiusi completamente. Era una propagazione mai vista del genere, che ti permetteva tutta l'Italia ascoltato. Ma non è una propagazione brutta, che si parlavano uno sopra l'altro, o era tranquilla? No, è durata ore, questa propagazione era una mattina di domenica, era un pochettino più su di 27, dai. E in banda laterale, ma ho collegato tutta l'Italia, tutti i radioamatori erano poi. Comunque, ho visto, fanno i contest, come ti chiami, non mi ricordo mai, vabbè, Alfa 21, visto che ci fanno i contest 27. Vabbè, no, è perché forse quello che me l'ha detto si è sbagliato, oppure mi voleva dire che se ne fanno poco e niente, perché mi ha detto no, i 27 non si fanno, che è una perdita di tempo, mi avevano detto, vabbè, avrà sbagliato, da. Positivo, dai, non ci sono un'ora. Cacchio, me a Luca. Cava, dai, fratello, la cosa è bella, non ci stanno problemi, la corte mia, sono 31 direzione Cagliari, cacchio. Questo sta trasmettendo la vicina, la 131 all'altezza di Arda, la dove sei? A Montezola, la parte mia, dai, direzione Sassari, stramacco e scarico, e poi tutto direzione Cagliari, cacchio. Sto a ridere Luca, troppo simpatico. Ok Riccardo, vai con Luca. Ehi, ciao Luca, gappa. E ok, adesso c'è il mio amico Simone dietro, avanti Simone. Positivo, dai, una parte mia, la stessa sta in direzione di Cagliari, ragazzi. Simone di Cagliari, così Luca. Positivo, dai, di Cagliari, ciao, chi sei? Roberto, sì. Ehi, Roberto da Sassari, Luca, di dove sei? Di che zona hai Cagliarissimi, Luca? Simone, di che zona hai Cagliarissimi? Di San Massi sono, dai, di San Massi da parte mia. San Massi. Vai già. Oh, io. Vicino ero un capo di fumo. Fatti a cigaretta, Luca. La di chi è la colita e che la mia cavallera c'è la di chi è la colita e capa capa e... Ma tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto, dai, passiamo un po'. No, dai, come tutto all'altro, dai, che tanto chi ne sono, devo fare l'insulina a mamma. Cazzo, facciamo la glicemia 233, prima di cena. Sono misurato adesso, che siamo andati alla pista, 178. E quanto deve essere, Luca? La glicemia buona deve essere almeno 120, da 110, 120, va bene. Quindi bisogna stare attenti quando sono valori così sballati. E io penso proprio di sì, Il diabete è una brutta bestia. Grazie a Dio, diciamo. Mia nonna ha avuto, tutta la vita l'ha avuto il diabete, mia nonna, tutti i giorni l'insulina, ma con le siringhe di una volta, non roba da avanti. La roba da là è tutta una pennina che regoli in base a come c'è la glicemia, ti spruzzi, ti inietti la, il coso, la l'insulina. Ia. Poi mia nonna si chiamava Isolina e si dettava l'insulina. Robè, per quanto riguarda il telefono, tu ce la fai a farmi aprire subito quando arriva il display? Certo, la cosa importante Luca, ti chiedo, siccome la figlia me l'ha raccomandato, Guida non possa senza il telefono, ma lo devi fare subito Luca. Certo, il giorno stesso. Lei mi ha detto, no, se più di un giorno no, non ne farò fare, già ce lo fai in una giornata, cioè lo porto la mattina e la sera me lo dai. Diciamo devo smontare tutti i pezzi, le fotocamere, tutta la maladam, capito? Il connettore di ricarica, tutte queste cose. Devo smontare tutto e piazzarlo in quello nuovo. Ma una domanda da ignorante, siccome io non l'ho mai visto neanche fare. E il display c'ha dei coso a pettine, devi saldare qualcosa? No, tutta flat, connettori. Ok, dai, quindi non è, diciamo, non ci sono saldature da fare con coso, perché nei telefonini, chi sa lavorare sui telefonini di saldature, c'è un'attrezzatura super sofisticata, eccetera. Però metterti su un display 100 euro, so, un bel, un bel. Loro buoni buoni si intascano 80 euro puliti. Ma stanno diventando furbetti i cinesi, già lo sai, che adesso cacchio, e poi come hai detto tu prendono una cosa, lo tagliano, modificano e fanno, e magari te ne muoiono in un altro. Ci ha dato mio cugino, non è cugino, mio nipote, uno dei miei nipoti dice c'è tornato 9 volte, alla 9 volta gli erano aggiustati. C'è cosa l'hanno fatto a Marco i cinesi? A mio figlio gli ha portato il tablet da cambiare il vetro, il vetrino che si era spaccato, quelli di Predanida, e praticamente siamo andati, l'abbiamo ritirato e mi ha mancato, questo qui non è il mio il tablet, e gli ha detto no, perché il tuo aggiustando le cose ci è successa una cosa che l'abbiamo rovinato e quindi ti stiamo dando questo qua. Ma io voglio il mio, non voglio questo, il mio c'aveva anche delle cose inserite all'interno eccetera eccetera eccetera, ma purtroppo dice non te lo possiamo dare, in realtà li ritornati subito perché cazzo c'è, e alla fine me l'hanno comprato nuovo. Vabbè, molte volte può capitare, diciamo, sono degli inconvenienti, però mi parlate che te l'hanno dato o i soldi o ho comprato nuovo. Dai, sono stati abbastanza tranquilli, ma c'è gente che io una volta ho visto una scena da un laboratorio elettrotecnico, un televisore della Midvar in bianco e nero, c'era il doppio schermo, con i pannelli protettivi, diciamo, per i raggi fastidiosi della televisione, li mettevano prima, era portato, questo lì c'è rotto, è andato a ritirarlo, però ma tanto non serve a niente, ma me lo dico, sono in sistema, ma non serve a niente, non se ne fa niente, alla fine si è scoperto che l'avevano rotto. Ma questo qui senza dire nulla gli stava rifilando quel tablet, senza dire nulla che l'aveva rotto, è perché c'ero io davanti e si è subito addrizzato le antenne quando Marco ha riconosciuto che non era il suo, allora no, io questo qui non lo voglio, l'ho detto. Questo è un tablet a seconda mano, quello di mio figlio era nuovo, gli sono caduto in terra, ma nuovo di zecca, mi è caduto in terra un paio di giorni dopo che l'avevo comprato, nuovo, nuovo, nuovo. Io lo voglio nuovo, gli ho detto, se ripago il vetro, quello che vuole, però io lo voglio nuovo. Gli ho pagato l'operazione del vetro, anche se non l'ho messo perché quello era nuovo direttamente, però gli ho pagato l'operazione come se avesse aggiustato quello. Sai, è giusto che sia così, dai. La furbizia non va bene, vai Riccardo. Sì, ok, mi sono perso un attimo, non ho capito il discorso comunque. Devi stare attento tu, se no ti mandiamo la registrazione, facciamo tipo la televisione, più un'ora, non avete visto? Sky più uno, Rai più uno, c'è un'ora di differenza. C'è un'ora di differenza? Tu ti guardi un programma che inizia alle 7 per dire, poi c'è un altro canale che troveranno con un'ora di differenza lo stesso programma, c'è più uno, addirittura in certe nazioni tipo la Russia ci sono i fusi orari, direi 4 ore di fuso orario, c'è più uno, più due, più due, più tre, più quattro, anche negli Stati Uniti lo stesso programma, siccome per dire nella costa ovest sono le 10, mentre dall'altra parte possono essere le 6, allora c'è un orario, cioè ci sono tanti fusi orari che cambiano. Per cui ti danno lo stesso programma in modo che te lo guardi allo stesso orario che vuoi vedertelo tu, per dire le 7 della costa ovest devono essere le 7 e ti danno 3 ore di differenza. Hai capito? Eia, ho capito. Vabbè. No, mi ero distratto perché stavo guardando per il camper tra le batterie e il regolatore di carica. Quel regolatore prendilo da fusare, dai, c'era già pronto perché bisogna stare attenti. A me me ne è capitato uno rotto e ci hanno cambiato. Ho capito. Non è un regolatore di carica, non confondiamo, un regolatore di carica è un'altra cosa, è un partitore di carica. No, un'altra cosa, non è quello che mi hai fatto vedere tu di quello che hanno da fusare. Il regolatore di carica serve per i pannelli solari oppure per l'alternatore, però l'alternatore ce l'hai già, serve per regolare, dare una tensione costante ai coso, al come si chiama, alla batteria, e quando è carica si blocchi. No, ma infatti quello che sto dicendo io è per i pannelli solari, per i pannelli solari. Appunto, il regolatore di carica si usa per i pannelli solari o negli alternatori, quando la batteria è già carica ti si blocca ed evita di dargli, di continuare a dare corrente, se no la bruci, la consumi la batteria, la rompi, e così il regolatore di carica dei pannelli solari, quando arriva quella carica nominale, diciamo quei giusti ampere che deve andare la batteria, perché deve fare 50 ampere di ricarica, quando arriva a 50 ampere si blocca automaticamente. Ho capito, non mi ricordo se si chiama proprio il regolatore di carica, aspetta, come si chiama veramente? Regolatore solare praticamente si chiama, regolatore solare CDE. regolatore solare, perché lo utilizzano per i pannelli solari, però è sempre un regolatore di carica. Yeah, va bene, riprendiamo, non parliamo che di regolatori, che sennò poi gli altri possono avviare. Avanti, doppio rumbo. Un attimo, sto rispondendo a un messaggio, scusa. Yeah, c'è anche Simone. Simone, riprendi. Si è abbassato il QRM, dai, meno male. Comunque tutte le cose vogliono fatte con cognizione di causa, se non sa l'esperienza chiedi, sempre qualcuno ti può aiutare, trovi sempre qualcuno che ti può dare delle informazioni. State attenti con quel discorso lì, già gli ho detto stamattina anche a tuo babbo, informatevi bene, poi se vi occorre qualche informazione, io ne ho montato tanti, non ci sono problemi. Yeah. Scusa Roberto, te lo chiedo, ma non so se lo dico bene, ma tu cosa ne pensi? Perché proprio è incerto sulla qualità questo legno di Weng. Non ho capito niente, parla più piano. Ti volevo chiedere se ne sapevi qualcosa, perché era una scrivania che stavo guardando, perché era proprio a angolare, andava bene dove ti ho fatto vedere il posto per mettere le radio, che era anche lunga. E ti volevo chiedere se sapevi com'era questo legno di Weng. M di Weng, non riesco a capire cosa vuoi. Il legno, questo legno che si chiama Weng, W-E-N-G-E, Weng. MDF sarà. Sì, aspetta, ti mando la foto un attimo, che avevo visto questa scrivania, così lo vedi. No, io so con l'MDF, questo materiale stai dicendo tu, comunque sul legno abbiamo un maestro, Giulio, che è un grandissimo artista e maestro nel suo campo, ci può dare tutte le informazioni che vogliamo. L'MDF è una specie di truciolare, una cosa diciamo derivata dal coso, dalla macina del coso, di certi tipi di legna. Era il Sud Italia, stava chiamando. Attenzione Sud Italia, se ascolti l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Sud Italia, ascolti l'isola della Sardegna, stava chiamando doppio room. Scusatemi. Attento mio hermano del nord delle Spagna della Scusia, l'isola della Sardegna, adelante. Cazzo di propagazione. Sud Italia, ascolti la Sardegna, cambio. Attenzione Mimmo, ascolti l'isola sarda, la città di Sassari, l'operatore doppio room, avanti. Come Roberto, vai tu dai. Attenzione Mimmo, se ascolti qua, Sassari, operatore Roberto, io ti ascolto bene, Radio 5 Santiago Roma, il tuo segnale, avanti se mi hai copiato. Ok, dai, diciamo ci sono un sacco di disturbi, comunque ti ho tirato fuori questo passaggio, eri 8, la radio molto forte, purtroppo si sovrappongono i segnali, c'è anche la Spagna che disturba. Mi dici le tue condizioni di trasmissione? Boh, dai, lasciamo perdere, è scomparsa. Stavo dicendo, Riccardi, quel materiale probabilmente è il tipo di rivestimento, è una scrivania intrusolare rivestita, nobilitata, diciamo, però il prezzo è molto buono, a te ti andrebbe bene quella lì. Amico di Sud Italia, ascolti Alfa 21, operatore Riccardo, dunque non mi ascolterà mai. Attento Floavia, se mi ascolti, attento. Attenzione Sud Italia, se ascolti la città di Sassari. Vabbè, freghiamoci, vai, viene il segnale a momenti 9, poi 5, 7, se no non cambiamo piede. Chi è che ha chiamato adesso? Ma che è Giovanni, tu sei? Antico Fabio, ma adesso lo chiamo io, vedi chi risponde, vedrai, giro l'antennino dal terrazzo, lo metto in cantina. Scusa Fabio, un attimino al volo. A te ti sta cercando Riccardino e poi mi sta bombardando di telefonate e di messaggi Giovanni Bracco. Non c'era il numero tuo? Sì che c'era il numero mio. Perché? Non so, dice, se avete sentito a Fabio, forse ti deve qualcosa o dovete mettere d'accordo per qualcosa. Siamo visti stamattina. Quando è che chiesto di me stasera? No, ieri, no, stasera, vi siete visti qui tutto a posto? Sì, ci siamo visti stamattina, tutto, caspita, che persona particolare, veramente particolare, Giovanni, che artista. Nel suo campo è proprio un artista, lui è un pittore molto rinomato, dai. Ma certo, stavo cercando. Cappa di Campino, dimmi tutto. Non ne voglio parlare più in frequenza, se conosci qualcuno che può darmi il tuo numero, che così ti parlo al telefono. Cappa, il giro potrebbe essere semplice, so che Roberto conosce Giovanni. Dico a Giovanni di dare il numero a Roberto e Roberto dà il numero a te. Secondo te, Roberto, va bene? Ottimo, va benissimo. Mi pare che ce l'abbia il numero, ma ce l'ha scritto dal cellulare un pezzo di carta, perché se l'ha scritto un pezzo di carta è perso. No, lo so che l'avrebbe dipinto il pezzo di carta, Giovanni. No, l'ha preso dal telefono. Ok, dai, lo chiamo magari più tardi, se mi risponde poi Riccardo te lo mando, sennò domani mattina, tanto almeno 2 o 3 volte alla settimana passa da me. Sì, me l'ha detto, mi ha detto che bel lavoro che devi fare sui campi che stai costruendo, e ho anche un sacco di idee in merito e sono curioso di vedere se sei nella stessa frequenza, lo so, per non cambiare argomento. No, assolutamente, se vuoi qualche informazione lo faccio per lavoro, tieni presente, non so se solo so. Sì, so qual è il tuo campo, tant'è che ti posso garantire che tu hai visto tutte le macchine della mia famiglia. Addirittura, che macchine se si può dire, non dico la tua famiglia come si... Allora, a partire da 500 euro, siamo passati finché era 126. E abbiamo avuto una Austin Allegra e poi abbiamo avuto una Rover 213 SE, quella col motore collaudato da Senna. Poi abbiamo avuto una Rover 200 piccolina, grigia, anche lì. Poi ultimamente ho visto una C5. Aspetta un attimo, che cosa è la C5? Abbiamo fatto una, vabbè, ce n'è una quasi in riparazione, vabbè, ma la devo portare, però quella lì non può essere perché è una persona che conosco benissimo. Che cosa è blu poi, che cosa? C5 è grigia, la particolarità è che è l'unica 1.8 benzina che c'è a casa. Ma gli abbiamo fatto qualche lavoro? Sì, vabbè, sempre perché il detto di mio padre era i più cari, i più bravi. Vabbè, non esageriamo. Ok, se sei trovato vuol dire che ti sei trovato bene, diciamo solo così. Sì, campa. Sì, ma tutte le macchine tu le hai viste da quando eri ragazzino. Forse il tuo marito capa che l'avete fatta a babbo un 3 anni fa, roba del genere. Poi la macchina, insomma, alla sua età e capita come fa, poi papà non c'era più, perciò un po' si è mollato. Ok, ma vai, mi conosci pure, sei venuto anche tu da me? No, negativo, io l'ho sempre accompagnato, quando l'ho accompagnato, quando mi arrivate nei cartini, perché sono vicini. Lasciato a voi aspettando che magari gliela consegnate, parlasse con lui e qualcosa, insomma quando ho potuto mandare a casa lui, ho fatto questo. Perché non sono mai entrato nella vostra officina, però so tutto nella vostra officina, tutto, a partire dagli stampi, dalla collezione di stampi che avevate per rifare tutti i pezzi delle macchine come la 500, la 600, la 1100, so che avete tutto. Sì, vabbè, già ci arrangiamo, dai, riusciamo a fare qualcosa nel nostro piccolo. Ok, dai, se capita passa volentieri, non ci sono problemi. Magari ti conosco dalla voce, perché le facce me le metti greggio. Ha ragione, è venuto Claudio con Massimiliano, questo lo conosci, è grande riso. Perché ci assomiglia per certi versi come corporatura a un genio, sono tutti diversi, però, ecco, ma non è un genio dentro di me. L'ho sentito parlare, tu sei Massimiliano, dalla voce lo conosci. Anche a me è riuscito la qualche cosa, non conosce le persone in verticale e riconosce la... Ma tu hai attivato noi, ci sta coprendo a tutti. Lì sì che ero attaccato alla radio, perché gli tiravo in moto, ma ero importante. Allora, finirò già. Addirittura in una moto mi avevo messo l'attacchino per l'antenna veicolare a fianco al manigliotto in una figlia, figurati. Ok, aspetta Gianni, dimmi già. No, ho detto, qualche parte c'è questo qua, sta coprendo a volte a Fabio. Lo so, è una questione di antenna. Ciao Gianni, ben sentito, scusate, né break né nulla, maleducazione da questa parte. Fabio Master maleducato, che saluta la ruota. E E in due avete parlato e non si è capito niente. Chi ha parlato oltre a tre già? Luca, ma tu sei... sbagliamo una esplosione nucleare. Fabio, ciao, senti questo qua, vediamo cosa lo riconosci. Certo, se ben accetto, ci mancherebbe, sono contento. Io tra parentesi caffè non ne bevo, quello chiudiamo il discorso. No, io andrò a caffè, Ricca, una cosa ancora. Ti beve un cardinale. Cardinali adesso c'è pedofilia, non mi vanno. La Coca-Cola per tutti. Io l'ho bevuta anche oggi il cardinale, sono andato a farmi una spesa, sono andato al bar, ho preso un cardinale, un po' di salattini, prima di pranzo. Va bene, vi lascio, vado in carica, batterie, ci sentiamo più tardi. Ciao Riccardo, buona carica, buon tutto. Se ci siamo, almeno io non credo che ci sia, se c'è qualcuno eventualmente ti continuerà la conversazione. Avanti Gianni, poi Luca e poi Fabio. Ciao Riccardo, buona carica, quando la fai ci sentiamo dopo, dai, avanti Fabio. Cappa poi anche Luca che sta avendo. Ciao Riccardino e buona carica, ci sentiamo dopo, dai Luca. Ciao Riccardi, a dopo, ciao ciao. Comunque sempre fermo a Bologna, mi da Bologna, nel sito dell'SDA. E se arriva domani, sono dopo domani. Ehi, ciao a tutti, a più tardi. Ehi, ciao Riccardo, all'asse di Bologna. Fabio, ma tu mi hai detto che eri Olbia prima, come mai? Ma per la voce? Io pensavo ad Olbia, la città d'Olbia, poi niente, dopo siamo malato, ho seguito una malattia, perciò sono praticamente un anno, anzi faccio un anno a giugno qua a Sassari, e gli ho mandato la mamma una volta da sola, perciò insomma ho fatto scoppiare la mia vita, chissà i pezzi dove vanno a finire, non beh. Ma tuo babbo si trova ancora o che cosa? No, babbo non c'è più, non c'è più, se ti ascolta vuol dire che ti ascolta lassù, ci vuole una bella antenna. Già ci ascoltano tutti, dai, io ho perso mia mamma lo stesso qualche anno fa, già ci ascoltano, ecco, non ti preoccupare, ci ascoltano e ci vedono pure, e molte volte ci danno anche delle indicazioni per chi ci crede, diciamo, benevolo. E speriamo, il discorso è che io l'ho vissuto come una grande ingiustizia, capito, nei suoi confronti, una grande ingiustizia perché è arrivato un momento in cui si poteva finalmente rilassare, si poteva godere la vita. Pensa tu che io sono venuto qua il giugno scorso per consegnargli il camper, perché lui aveva detto un camper che gli piaceva, io non gli ho detto niente, ne ho trovato una Novara, così al volo sono andato, gliel'ho comprato, gliel'ho portato, gliel'ho fatto vedere, poi c'erano le solite modifiche da fare, no? Le batterie, i pannelli solari, poi ho trovato l'infiltrazione, gli ho tutto rifatto, la struttura, gli ho fatto le pareti, gli ho rifatto tutti gli impianti, eccetera, eccetera, sono qua a consegnare, glielo avevo guardato in faccia. Secondo me non stava bene, siamo andati in dottoressa, gli ho iniziato con un paio di analisi e poi per il resto l'ha portato su, capito? Perciò era un momento in cui babbo finalmente si poteva rilassare, fare che so quei 10-15 anni di vita tranquilla, era da pensionato, nulla, ingiustizia. Lo so, Dottino, e quello soprattutto con le brave persone, poi trovi dei delinquenti, dei criminali, gentaglia, attacco, li vedi sempre in giro, dici ma poi subito non muori mai, e le brave persone poi sono quelle che perdi, amici carissimi, parenti carissimi, e poi trovi quel ladro che ne ha fatto di tutti i colori, ne ha fatto tossicomane che ne ha combinato di tutti i colori, quello lo vedi sempre in giro. Tuo papà, se lo vuoi dire, di cosa si occupa? Mio padre è un insegnante. Un insegnante è convinto che non è canaporeno, è rimasto lì per non so quanti anni di servizio ha fatto, tutta la vita, perciò insomma ne ha passato, e tu che poi l'hai fatto, non è che magari sei finito il suo alunno, no? No, io ho fatto i geometri, mi sono diplomato ai geometri. Elementari e media? Le medie alla numero uno di San Giuseppe e elementari a San Giuseppe. E allora niente convinto. No, di lì ci vanno quelli bravi, io non avevo gara di studiare. Ma chi c'era convinto che aveva voglia di studiare? Io non ce n'era uno, meno male, un po' di didattica e qualche bravo insegnante ci hanno messo pure di riga, se no gana di studiare, giusto, bovinera, però posso garantire. No, ma di lì molti genitori ci volevano disfare dei figli per tenerli impegnati tutto il giorno, andate al canapoleno. Sì, era anche un parcheggio, per alcuni è un parcheggio, per alcuni è un parcheggio, per altri invece è un'eccellenza e ci tengono, e per altri, anche per il convitto, tiene da parte dei posti per i meno abbienti, praticamente regala la resta, per altri può essere una salvezza, capito? Sì, no, naturalmente stiamo scherzando, si sa benissimo. Ok, doppio rumo Gianni, avanti a lei il mic. Ehi, là. E che dire, quando sento queste cose mi fa solo male a me, perché anche io ho perso mia madre, ho perso mio padre, e in ogni cosa mamma mi diceva quello, mamma mi ha insegnato quello, sempre in mezzo la metto, la ricordo sempre. E cosa si vuoi fare? Hai detto vedo qualcuno. Ah sì, quello me lo ricordo, ma forse lo conosco, devo chiedere a Babbo. Ma poi ce ne ricordiamo dei nostri genitori, quando non ci sono più ti rendi conto cosa ti sei perso. Dice, cazzo, quante volte la facevo arrabbiare, quante volte l'ho risposta male, quante volte mi dava delle dritte, io dicevo, ma cosa stai dicendo? Poi ci pensi dopo, cazzo. E adesso lo vorresti anche arrabbiato, però lo vorresti. Certo, dai, purtroppo mi chiama così, no? La fine del mondo, capito? Cosa ci vuoi fare? Nulla, l'importante è averla messa tutta, in tutti i sensi. Io penso che mio padre ha avuto una vita abbastanza serena, forse l'ultimo anno era un po' preoccupato per mamma, eccetera, però tipo sereno, laborioso e niente, mi mancava proprio farsi gli ultimi anni in tranquillità. E questo, con la firma che è arrivata da sua, l'ha tolta e mi girano un po' le scatole per questo motivo. Non lo so, ognuno di noi ha un libro già scritto con la data di scadenza e la data di nascita. Siamo già tutti iscritti in questo libro e dobbiamo essere solo fortunati che l'evento venga il più tardi possibile, senza sofferenze possibilmente e senza fastidi alle altre persone. Io dico sempre quello lì, perché puoi morire come è morto mio zio, è morto un mese di pensione, tanti progetti, tante cose bellissime, una persona molto giovanile, un mese durato, tu un infarto, come è uscito dalla pensione, un mese, aveva già fatto tutto per fare delle belle cose, il mese dopo è morto, l'infarto fulminante, lui non ha dato fatti da nessuno, a parte le tristezze, eccetera, eccetera, così se uno deve morire di golfo, tu ho addormentato, però c'ho dei parenti che cacchio hanno sofferto, 15 anni sotto malattia, una cosa con l'Alzheimer, con le malattie di coso, di tumore, l'altro mio zio, cambiamo discorso, dai, che sono mica triste, dai. Ok, una domanda, Fabio, tu di cosa ti occupi quindi? C'è un laboratorio, cosa? Io mi dovrei occupare di climatizzazione idraulica e piatti elettrici. Mi dovrei occupare perché ancora non so quanto lavoro mi è rimasto ad Olbia, perché per tanti mesi il telefono squillava, però io ero in fine all'ospedale, per dire, capito? Dunque non so ancora come sono piazzato. La stagione scorsa ho montato 5 condizionatori che indicativamente 5 condizionatori nelle stagioni peggiori li potevo montare in 3 giorni nelle stagioni peggiori. Quest'estate non ci sta, no? Non ne ho più idea, è che anche devo stare qui a Sassari, perciò lo stare per andare nel mio campo di battaglia non è facile, perché comunque devo stare lì con mamma. Dunque non ho idea ancora di come andrà il mio lavoro nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se non continuerò. Sono in un attimo, capito, un attimo di riflessione. Io ho capito, purtroppo sono situazioni particolari, bisogna stare vicino alle persone che in quel momento hanno necessità. Ok, cosa volevo dire? Chi è rimasto qua? Io, Fabio, Luca e Gianni, confermiamo i passaggi prima con Luca. Io sono qua e sto leggendo, dal telefono. Gianni, vai tu? Lo stesso. Vediamo se c'è qualche donata, attenzione ai 10 chi vuole entrare, nulla. Come mi ascoltate con questa radio, questo è un altro microfono, ogni tanto lo faccio girare. Ma non pulita. Ciao, va bene, no? Praticamente come al solito. Vediamo un po' più lontano. Più lontano sarebbe più chiaro, perché a tenere un po' di volumi e di retgain è torrivi fortissimo, quindi balli le lancette, i led, fin di tutto. No, intendevo più lontano, a quelli che sono più lontano, Gianni e doppio room. Cosa vuoi sapere? La radio è normale, ma va bene. Oggi è normale, non è amplificato. No, non ha certo amplificato. Boh, ma senti, dell'altro giorno mi ha detto addirittura troppo forte, Io la sento una radio normale e non so chi possa sentire amplificata, boh, io la sento normalissimo. Se poi tu alzi magari amplificata, ma se non alzi... No, qua sono al minimo, mi tengo basso come l'altro, con l'altro microfono. Mi ha detto rispetto all'altra, la solita questa era un pelutino più alta, vabbè, ricordate che sia chiara, poi il resto non mi interessa. Vedi, come la prima voce amplifica, ma se tu parli a voce bassa parli a radio normale. Oh, sono come lontano, così devo stare, questa è la posizione mia solita. Adesso già sta amplificando. È presente, sono al minimo di livello microfonico e la compressione la metà, diciamo, c'è cioè bassa, media e alta, questa è in posizione media e l'amplificazione su scala 10 sarà 3 e l'apparato 1. è l'apparato 1. KK. E figurati. Io non lo so, ma se ne allontano così, sono anche lo stesso. Ora ti ascolto bene in ogni caso. E da 6 anni come arriva tutto un po' più lontano. Ma già ti sento lo stesso io lo sento sempre a tu. Ma Gianni, con quello che stai uscendo, con Saturnecco? Con Saturnecco, perché? Avete parlato in due, con cosa già? Con Saturnecco. Cazzo, è una bomba questa radio, ma io toglietemi una curiosità, ma perché cazzo cambiate le radio quando avete le radio belle, pulite e chiare? Perché bisogna anche cambiare, non si può stare sempre con la stessa radio, Robbe, tu però non le cambi le radio, cazzo, tu proprio ne stai la ricca. Ma io uso il 90% questa faccia, anche le altre così ogni tanto per accenderle, ma se ho trovato il controllo giusto compromesso, mi posso alternare ogni tanto il microfono con questa radio, ma io uso sempre permanentemente questa, le altre le accendo dopo non so guanto. E poi sono quelli costretto a usare questo. Posso usare anche il piccolino, però sinceramente abituato a questo apparato, questo microfono, e così. Non cambierei neanche. Adesso quando metterò sulle antenne però cambierò sicuramente l'apparato e vorrò usare questo microfono che campa, poverino. Ma io ti ascolto, ti ripeto, l'altro giorno eri un po' bruttina di modulazione, però adesso sei bella chiara, pulita, niente da dire, naturale. Sì, sì, ma il microfono, Roberto, è il microfono che, anche se è un giocattolo, perché è un Inter che mette il centro, sono dei microfoni molto, molto superiori a questo. Anche se è un giocattolo, in realtà è sottovalutato, perché c'è una capsula giusta e sopra pasticci. Io credo che sia uno dei microfoni che si adatta un po' a tutte le radio, ho preso che, vabbè, anche sul C80 l'avevo usato, collegato, era speciale, cioè mi sentivo registrato ed era la mia voce sul nastro, era uguale. Sì, c'è anche io l'M600 l'abbinato a una base della Intec, lo stesso già va bene, anche se devo dire i Tanner sono più potenti e più lineari come modulazione, ma anche quello non dice la sua. Sì, un giocato, questo l'ho ricostruito il mese scorso, perché in realtà l'ho usato per tutto, l'ho usato per registrare chitarre, l'ho usato per registrare voci, l'ho usato per registrare ambientale, l'ho usato per registrare il mare, per fare effetti sul disco, cioè l'ho usato per tutto, sai com'è, no? Ci sono la resistenza, i cambi condensatore, i cambi operazionale, qua e là, eh? Alla fine non era più lui, cioè alla fine era dentro una scatola di quella di derivazione, per gli impianti elettrici, con tutti i ponticelli, i fili che venivano fuori con 10 interruttori, capito? Sì, ce l'hai divertito. No, io adesso quando ho tempo avevo utilizzato, non so se vi ricordate, nei supermercati c'erano quelle, diciamo, una scatola, chiamavola volgarmente una scatola col tasto, l'ho quel tasto, questo PTT, e l'ha collegato al circuito del coso, dell'altoparlante, c'era il microfono, dice, signor, desiderato, eccetera, eccetera. Io ho utilizzato quel corpo, gli ho messo un circuitino all'interno, alimentato a 9 volt, con l'ingresso jack, è riuscito il RCA che le attacco al mixer e da lì vado a modificare tutto quello che voglio, diciamo volevo riprovare adesso per divertirmi, c'è un mixer da battaglia di quelli con tutti gli effetti eccetera eccetera e voglio rigiocarmi a fare qualcosa come faceva anni fa Pinangio, non so se tu l'hai ascoltato, gli anni sicuramente se lo ricorda tutti gli effetti, i giochi, perché ho visto che adesso c'è anche la moda di tutti questi più tipo effetti ecco e cose va. No, capo, ho capito. No, quello che volevo fare io è il giudizio che sto portando avanti nell'angolo del bancone e mettere un equalizzatore parametrico di quelli da auto, modificato per equalizzarli, anche se poi andiamo sempre nell'imbuto nel modulatore dell'apparato, anche se entra in S6 e ha un modulatore che è meraviglioso, per essere un baracchino, e per esempio ci sono gli HF che sulla 27 comunque li puoi girare come si fa le piace, equalizzare, colpire, aprire, allargare, stringere, e sulla 27 non escono bene. Però comunque il giochetto dell'equalizzatore lo voglio rifare, l'avevo fatto, mi stavo divertendo, poi ho fatto tutto, non mi ricordo neanche perché. No, come condensatore c'hai, cioè, presente, già lo sai meglio di me, la banda di frequenza di coso, di trasmissione è molto limitata, arriva a 3000 Hz, per cui quel gioco di frequenza, puoi però linearizzarla, cercare di togliere qualche diciamo carenza o eccesso utilizzando l'equalizzatore. Io in questo caso sto usando un microfono equalizzato, un Adonis, la V908, ha cioè 4 bande di equalizzazione da 270 a 2000 Hz, cioè. Se vedi come equalizzato ti metti le mani in testa, dici che logica c'ha, purtroppo l'emissione di questo tipo di apparato devo farla così, se devo utilizzare la voce per parlare è tutto totalmente diverso l'equalizzazione. Qua ho dovuto attenuare di 12 dB, quasi 10 dB, 10 dB i 270 Hz, e gli altri sono quasi tutti abbassati di media di 7-8 dB, tranne che i 2000 è quasi neutro, a 0 dB. Il comportamento del modulatore dell'apparato, se è presente come è stato circuitalmente, mi rendi conto che è una cosa e l'altra, per come sono abituato a vedere l'audio che passa negli apparecchi, a valutare i tagli di ingresso, gli accoppiamenti, la modifica di impedenza per non perdere tonalità, eccetera, è tutto un ragionamento sballato, cioè va proprio fuori dai discorsi classici che tu puoi fare in testa quando pensi a un impianto audio, un impianto stereo, sia in auto che a casa, è tutto diverso. Conferma al 100%. Scusate il monopolio, aggiungo anche altre cose. La cosa più ridicola, diciamo, questo equalizzatore diciamo abbastanza affidabile, ma quando vedo le regolazioni con gli MB più 5 che hanno il controllo di tono, la cosa più brutta è quello lì, quando tu vedi, per dire, più amplifichi e più attenui le frequenze, per dire, stai sollevando, per dire, il guadagno del microfono e ti attenua.